24. La storia. Porca Eva, porca. Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo a dire del sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè, il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema il tilt dove magni. Guardami. Leggi un po' un attimo che io questo occhiali ci vedo. Carlo è un grande, ha avuto un serbatoio poi di storie da raccontare infinito. Carlo ha come un archivio di personaggi nella testa. Io, Jessica, prendo te, Ivano, come mio sposo e prometto di esserti felice sempre. Fedele, Uccia, ci prova. Guardava le persone, sentiva come parlavano e le imitava. Lui faceva le imitazioni dei professori. Ci sono dei personaggi che sono rimasti indelebili proprio nella sua formazione di attore. Ciao nonna! In che senso? Oggi a Mix 24 vogliamo proporre un ritratto ironico e affettuoso di Carlo Verdone, classe 1950. David di Donatello del 2008 alla carriera, attore e regista amatissimo. È la storia di un camaleonte che ci ha dato tanti sorrisi e un pizzico di malinconia con una galleria di personaggi davvero irresistibili. A raccontarli e a raccontare Carlo Verdone sono i parenti, gli amici, i colleghi, i collaboratori di sempre. A proposito di Se non è così, c'era un professore simpaticissimo, un mio amico, un professore del Racina, il professor Umberto Sivigliano, che ogni tanto mi faceva questa domanda. Dice, Vittorio, dice, ti mi rivaglierai, ma ogni volta che i miei alunni mi fanno una domanda su un seno e così, io mi trovo in un imbarazzo profondissimo. Cioè, che cosa intendevo dire a questo professore? Vabbè, era molto giovane. Cioè, che ci fosse una certa malizia in quella domanda che gli facevano gli alunni. Cioè, lui intendeva, ma mi chiederanno il seno fisico o il seno numerico? Io dicevo, Vittorio, ma con tutte le battute che c'hai? Carlo prende due o tre dettagli che ti fanno vedere, danno vita proprio come se fosse una marionetta che si improvvisamente si mette a muovere, si muove, si trasforma in un'altra cosa. Il bullo che ha visto nei personaggi della Roma degli anni 70, degli anni 80 a Ostia, capito? Io sono il fratello maggiore. Alzate un po' un attimo. Alzate. Girate. Tipo quello che camminava e faceva, hai capito? Si faceva sempre quella mossa che si aggiustava. Devo rimettere a sedia. Anche a me mi piace leggere un macello. Ma tutti i libri non mi ricordo, tutta roba da scuola. Lui è veramente un maestro in questo. È proprio nel capire la psicologia del personaggio che poi imita. Lo guarda dentro, ancora prima di guardare i suoi gesti, di guardare la voce, i timbri, le cose. Ammettiamo che io, per esempio, a sera per Roma non si può più uscire, no, è pericolosissimo. Ammettiamo che io, a sera voglio uscire con mio padre, con mia madre, al limite mediamente qua a fidanzare. Capiamo, a un certo punto arriva la motocicletta, arrivano due e mi dicono, caccia fuori la catenina, caccia l'orologio, caccia il portafoglio. E no. No, prima che io caccia il portafoglio, caccia fuori questa. Dice, la voglio usare, chi ti ha detto che non la posso fare? C'è il porto d'armi. C'è il porto d'armi. Timbrato, bullato, c'è il porto d'armi. Ah, non posso dire niente. Ma che stai scherzando? Prima che mi accoppa a me, voglio essere a coppa loro. Dice, ne puoi accoppare. Chi ti ha detto che ne posso accoppare? C'è la pista. C'è sicuro che la puoi usare questa? C'è il porto d'armi. Eccolo qua. Dice, ma la legge reale, ma quale legge reale? C'è il porto d'armi. Dice, ma chi ci vai con questo? Ma tu ho detto, c'è la pista. Perciò, Yasira, non sto tranquillo, sto tranquillissimo. Arriverà al limite mediamente pure il momento che io ritornerò al cinema, perché c'è da tornare. Dice, come ci torno? Ci torno con questo. Questa. Allora Carlo nel 78 fece Non Stop e faceva questi personaggi di cui anche il mio. Questo è scritto una poesia, cioè che io, cioè, non lo so, io non l'ho capito tanto. E fa, mi illumino d'immenso, qui, ma in che senso? Che senso non si illumina di mezzo? Insomma, amore, ormai qui ci parliamo un po' tutti come Stefano, perché è stata il cavallo di battaglia delle voci. Ci troviamo qui a Ponte Sisto dopo 2 ore circa dal terribile fatto. Sembra che questa mattina 2 anziani signori, Oscar e Baltercelli, si siano buttati da questo parapetto. Abbiamo molti testimoni a nostra disposizione. Per esempio, questo signore può venire un attimo per cortesia? Niente, io questa mattina stavo affacciato su Ponte Sisto, sì, no? E stavo a guardare l'acqua che livello stava, perché questi giorni sono state delle piogge torrenziali. Io ho paura che il Tevere possa uscire fuori e venire fino a casa mia, io abito proprio qua. Cioè, c'è da averci paura, una volta è successo, me lo ricordo tanto tempo fa. Niente, là mentre stavo a passeggiare qua sul fiume si accorto che c'erano due cervi c'erano, te giuro. Ma sono due cervi o sono due cervi? Due cervi? Vivi? No, mi sa che erano morti. Ma spesso lo sai che capita di trovare dei cervi nel fiume? Mi parevano due cervi, e poi se non erano cervi. Perché quando il fiume è in piena. È in piena pure dal Monte Fumaiolo, no? Da dove nasce il Tevere. E lì quando il fiume scende a valle si trascina selci, tronchi, scatole, bastoni e anche dei cervi. Stiamo ripercorrendo la vita e la carriera di Carlo Verdone, attore, regista, comico, con i suoi personaggi indimenticabili, ha raccontato la Roma degli anni Ottanta. Continuiamo dopo la via. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. I personaggi, i tic, le manie, i caratteri rubati dalla strada. È uno spirito di osservazione a cui non sfugge niente, sono il segreto di Carlo Verdone, che così riesce a trasformare tutto in commedia e catturare gli umori e le nevrosi della contemporaneità, come racconta lui stesso, suo fratello Luca e il suo amico d'infanzia Stefano Natale. Sono nato in un rione Regola, si chiama Rione Regola, tra Ponte Sisto e Campo dei Fiori, quindi avevo praticamente tutta la vera Roma, la Roma colorata. Avrò sempre un bel ricordo della mia casa, perché è una casa bella, vissuta. Un palazzo della fine dell'Ottocento, con una bella terrazza che dava sul Gianicolo, su Palazzo Farnese. Ho più passato io tanto di quel tempo, dal calzolaio, a sentire i suoi racconti, o da Gino il meccanico, detto Martello d'Oro, a sentire racconti, che poi alla fine in qualche modo tutto questo bagaglio è entrato in qualche modo in racconti e in episodi dei miei film. Ci siamo subito frequentati i primi anni di vita, diciamo. Stefano Natale era un personaggio che noi frequentavamo sempre, perché lui stava al primo piano, noi stavamo al terzo. I miei ricordi partono da quando io facevo le elementari e lui faceva le elementari. Io andavo ai Giubbonari mentre lui andava alle suole di Nevers e scendeva le scale, io tutto vestito di blu, e veniva il pullman che lo prendeva. Quando c'era tempo, ogni tanto io, Luca e Carlo andavamo dell'arco corridoio, che c'è un corridoio lungo, e giocavamo un 3, uno si metteva in porta e gli altri due facevano marcamento. Io sto sempre a rompere i piedi qui, basta. Allora Carlo ha detto, vabbè, senti, facciamo una cosa, andiamo a giocare su da me, perché lui c'era il terrazzo, però il pallone andava giù e era preso dal barista, diciamo, stellava, oh, piace il pallone, che mo scendemo. E Carlo faceva la voce del padre di Stefano, che parlava come Stefano, ma faceva Stefano! Stefano si affacciava alla fine, che vuoi papà? Ma dove stai papà? Faceva così, e invece era Carlo che da qua sotto si affacciava. All'elementare nasce l'amicizia tra Carlo e Christian De Sica, che sposerà la sorella di Carlo, Silvia Verdone. Come raccontano Christian De Sica e il padre di Carlo Verdone, Mario. Io ero stato bocciato e allora sono capitato in classe con Carlo. Io ero il figlio di De Sica, quindi non ero molto guardato bene, cioè, ma che vuol questo, ma chi è, se dalle arie, sto ciccione. E allora ho capito che nella classe di Carlo era il numero uno, era quello più simpatico, quello che bisognava accattivarsi. Allora io, per accattivarmi le simpatie della classe, ho comprato Carlo con delle versioni di Greco e gli ho detto: Carlo, se tu ti metti al banco con me, io ti do tutte le versioni di Greco tradotte dei compiti di classe che ero riuscito attraverso un altro professore ad ottenere, e lui schifosamente ha accettato. Christian veniva spesso qui a casa a fingere di studiare con lui, in realtà faceva la corte a Silvia. Lui aveva 18 anni, rompere le palle a una che ce l'aveva 14 e mezzo, francamente. Andava a prendere la scuola con una Ford Mustang, in periodo poi 68, quindi roba da prendere una bomba a Molotov dentro la macchina. Ma lui se ne fregava, era una specie di Clark Gable, di Viver, era fatto così. E io mi sono detto: ma no, ma guarda, io sono innamorato. Allora poi ci fu una riunione di famiglia e poi ci siamo sposati. Let me take you down, cause I'm going to... Possiamo dire che il teatro, in qualche modo, l'ho visto a casa mia, fatto dai miei genitori. E io dico: ma che cosa sai fare tu? E dici: io so fare i rumori. Naturalmente rumori un po' strani, eh? Faceva l'imitazione del bagno. Il primo rumore è stato il bidet. Quando l'acqua è... Era un bidet discreto, insomma. Beh, molto discreto, sì. E poi quando andava sul treno sempre faceva l'imitazione del bagno sui treni. Pedale. Con risucchio. Un talento precocissimo che si alimenta in una famiglia colta e vitale. Dalle rappresentazioni nel teatrino domestico al palcoscenico vero e proprio, il primo passo è breve e inevitabile. È un debutto che non passa inosservato e che lascia il segno, come raccontano Luca, il fratello, e Mario, il padre. Quando gli proposi di fare il Gargantua e Pantagruel tratto dal Rabelais, dal testo di Rabelais, lui non era convinto dei propri mezzi, era molto insicuro, molto incerto. La sera dell'inaugurazione tutti gli attori di questo breve atto unico si erano tutti ammalati perché era un freddo cane. E allora Carlo ha fatto tutti i personaggi. Io lo presentai in un teatrino a Roma, che era l'Alberico II, dove l'Alberichino si chiamava, dove lavorava mio cugino Mauro. In questo alberico, che era gestito da mia sorella Lucia, da Donato Sannini e dal Patagruppo, insomma, sono stati fatti degli spettacoli di diversissima estrazione, ma con un fuoco di fila molto da ricordare... nutrite queste... La grande, appunto, il gran momento del monologo che è nato qui. Paolo Poli l'ha invitata a recitare. Tali e quali, che fu uno spettacolo straordinario. Già neppure io, c'erano quattro persone, non era conosciuto all'epoca. Nel mezzo del cammino di nostra vita, la morte come un furtivo ladro notturno ci sorprende. Spesso uomini di mano ingegno periscono negli spumosi flutti eterni. Dopo tre sere che venivano amici, parenti, eccetera, la quarta sera non è arrivato nessuno al teatro. Una sera con molta malinconia chiudemmo le luci e ci dicemmo: è andata così. Però ci siamo divertiti per tre sere. Andiamo a chiudere la serranda e si vede un signore che arriva con gli occhiali. Dice: ma non c'è spettacolo? Dico: ma lei che è venuta a vedere Verdone? E io lo faccio. Ma che lei apre per fare lo spettacolo? Ma no, torno un'altra volta. Dissi: guardi, non ci sarà un'altra volta, se lo veda stasera. Ma sì, alla fine abbiamo alzato la serranda, abbiamo buttato dentro. Dico: mi dia un quarto d'ora che accendo le luci, mi cambio e via. Comunque sia, ci sono rimasto veramente di sasso appena ho saputo della sua morte. Fa giocare la schedina, ieri sera ai 7. Ma tutti i che giocano la schedina devono morire. Lui era, così, un barrocchiano, molto, così, un assiduo frequentatore della nostra parrocchia. Questa nostra famiglia, no? Dei figli di Gesù, ha subito una grandissima perdita. Uno dei parrocchiani forse più fedele. E noi veramente gli dobbiamo tanta riconoscenza. Tardissimo. Ciao Steffi, ti saluto. Pregheremo veramente un sacco per te, ci puoi giocare. Entravo, uscivo, ci cambiava. Alla fine si sentì. Sembravano un po' delle frustate. Però io arrivai. Mi chinai mi si alzò. Il giorno dopo, alle 2 del pomeriggio, che c'era ancora spettacolo, ma ormai sapevamo che non sarebbe venuto nessuno, mi dicono: "Ma hai letto Paese Sera?" "Perché?" "Ma quello che era venuto a vedere lo spettacolo, quello era un critico di Paese Sera, si chiama Franco Cordelli, che ha scritto: porca miseria, ha scritto 6 colonne. C'è scritto: è nato un nuovo comico, un nuovo fregole, si chiama Carlo Verdone." E allora c'è andato anche Enzo Trapani, che era un regista. Gli fece un provino, lo prese per Non Stop. Trapani era un uomo di grande avanguardia e lui e Bruno Voglino avevano l'occhio acuto per capire chi aveva qualcosa da raccontare. Di Vicolo Miracoli e dopo la colonna Massimo De Rossi, Raff Luca, Carlo Verdone. Non Stop è un successo clamoroso, una vera e propria miniera di volti nuovi. È una grande televisione che cerca e sa valorizzare nuovi talenti imponendoli al grande pubblico. Con Verdone si impongono infatti da Massimo Troisi, Della Smorfia, Francesco Nuti, Giancattivi, Gerry Calà, i gatti dei Vicoli Miracoli. Molti di loro, come inevitabile, approdano al cinema. E per il debutto cinematografico di Carlo Verdone c'è un padrino d'eccezione, come racconta suo fratello Luca e il padre Mario Verdone. Nel 77-78 io ero molto molto vicino a Sergio Leone, perché avevo fatto con lui un libro sui suoi film e a un certo punto Sergio mi disse: "Ho visto tuo fratello in televisione, uno spettacolo che si chiama Non Stop, mi è piaciuto molto, me lo presenti?" Dico: "Molto volentieri, mi dai il numero?" Dico: sì, digli di chiamarmi che gli devo parlare." Dottor Leone? Chi è? Signor Leone? Sì? Sono Carlo Verdone, posso entrare? Ah, vieni. Voleva conoscere Carlo perché voleva, dopo Giù la testa, voleva fare un po' più il produttore che non riprendersi, che non mettersi subito dietro la macchina da presa. Dice: "Tu scrivimi un soggetto, portamelo e poi vediamo se si può fare." Le è piaciuto allora quel soggettino che ho portato? Dice: no. Non funziona. Non fa ride? Non fa piagne. Ne fa un altro, ma anche questo non lo soddisfaceva. E soprattutto non esprimeva le qualità di Carlo, ecco. E così, passando davanti a uno spettacolo di varietà, mi pare che era, no? Era Non Stop. Non Stop. Mi fermai a guardare questo strano personaggio che diceva delle cose senza senso, ma che riusciva, cioè nonostante, a farmi ridere moltissimo. E allora gli ha detto: "Senti, dice, tutti quei personaggi che tu presenti nelle tue spettacoli, cerca di metterli in un soggetto." Ecco, grosso modo, il primo impatto con Sergio Leone fu questo. Lui mi ha requisito praticamente per 8 mesi a casa sua e mi ha insegnato praticamente tutto. E io gli dissi subito, brutalmente, che bisognava rompere ogni indugio e fare un film. E allora è venuto fuori il soggetto di Un Sacco Bello. E soprattutto che il film l'avrebbe dovuto dirigere lui stesso. Leone, la sera prima che lui dovesse fare il primo colpo di manovella per fare questo film Un Sacco Bello, la sera prima ha suonato qui, mentre tutti dormivamo. Dice: "Dice, sono Sergio Leone. Vorrei parlare con Carlo." E dice: "Che c'è?" Dice: "Guarda, dice, io ho capito, te non dormi stanotte, allora vieni con me, si va a fare una passeggiata al Trastevere." Sergio Leone era un uomo severo, pieno di sarcasmo, dalla battuta tagliente, certe volte anche feroce o pesante. Allora hanno fatto una passeggiata al Trastevere, gli ha dato i primi insegnamenti, eccetera. Mi ha insegnato il rapporto psicologico che il regista deve avere con la troupe, i dubbi fatti venire prima, mai dopo, se no dopo te rompe per culo. Dice: "Domattina allora non siamo tutti a Cinecittà per girare. A Mix 24 con la vita di Carlo Verdone proseguiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Carlo Verdone, ormai al suo debutto sullo schermo con L'ultimo viatico notturno di Sergio Leone. Un sacco bello racconta in chiave agrodolce i giovani della fine degli anni 70, il fricchettone, il bullo di periferia disperatamente solo, il bamboccione che non si decide a crescere. È un successo clamoroso, campione di incassi al botteghino dell'80, come ricorda Carlo Verdone e l'amico Stefano Natale. Costò 360 milioni un sacco bello, pensa te, lo girai in 5 settimane e 3 giorni. Fare quel film in 5 settimane con tutti quei personaggi che venivano sì dal teatro, però il cinema era un'esperienza nuova. Ma maschio! Maschio! Pure te, sbrigati! Dai! Allora io mi metto qui. Namo! Dai! Porcaccio, giù d'infame, giù da sabattino! Il parrucchiere veniva dietro, il rudere, dopo aver fatto pipì, mi cambiava le cose, io facevo pipì perché non la potevo più, perché non c'avevo niente, manco la loro. Io quasi da dilettanti, però invece non era dilettanti, perché il direttore della fotografia era Ennio Guarnieri, il musicista era Ennio Morricone, il produttore era Sergio Leone. E me che siamo alle giosce qua, qua c'è gente che soffre, un modo di rispetto ci vuole. Tu smorza, abbassa. Arrivato! E chiudi qua la finestra che fa via la corrente a tutti. A me piace tanto il pezzo quando fa quello là del bullo che va all'ospedale, no? Lui ama tutta quella zona, portantini, infermieri, degenti di ospedale, no? L'altra sera non mi trovo a passare per Ponte Vigliero. A un certo punto da lontano ti vedo che arriva un ragazzo, mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no? A un certo punto questo con lo zompo monta sul parapetto e comincia a urlare delle frasi che non si capiva un cazzo. Ti credo, era cinese. Il pezzo dello zoo. Sei zoo! C'è la scena che tutti sti animali che strillano e va giù. Stai zitti! Oh! E mi sbrago. Dopo il successo di Un sacco bello, Carlo gira Bianco, Rosso e Verdone, come ricorda Stefano Natale e lo stesso Verdone. Ma che cazzo, no, siete arrestate no, mesi? Zitti, fatemi la cortesia, non ve ci mettete pure voi perché io già ho la testa con un pallone. Ciao, Mimmo. Ciao, zia. Ma che succede? Non me ne parla. Ciao, nonna. In che senso? Io gli ispiravo un pochetto con queste cose perché proprio quando lui entrava a casa, proprio alla porta dell'ascensore, come lui apriva la porta, gli raccontavo, non so, ma come va Ziannita? Ziannita, pensi, mi padre ogni volta, va, Stefano è una piazza Annita, è andato a portare a vedere, va bene. Perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe, io le devo stenni! Ancora cazzo le gambe. Mannaggia, mo basta, sempre io con sto problema di ste gambe, io non ce la faccio più. Ripiega la gamba, mettegli l'altra gamba. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe. Ma mettegli il prete. Ma ricopri le gambe. Io gli taglierei quei gambe. I personaggi poi alla fine molto soli, che fanno ridere per come agiscono, per come parlano, per come hanno il loro percorso di pensiero. Ma poi siamo gli che invece hanno già per fare, io non ti c'ero, non ero disgraziato, che non volevo dire niente, no? Allora ci potevo dire qua, ci sono tutti qua, no, io ci sono fatto portamento, c'è tutto qua. Allora mi scopo noi non me ne potete fare niente, c'è, sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arriva. Voglio bene a quei personaggi. Nessuno mi appartiene, però l'anima loro sta dentro di me, in qualche modo l'ho catturata in pieno. Dopo Un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone consacra definitivamente il talento e la versatilità di Carlo Verdone. Sono due film che catturano il cuore del pubblico anche grazie a decine di battute memorabili che entrano subito nel gergo dei ragazzi. Ma nel cuore di questo successo rimane Trastevere e Ponte Sisto, una romanità che sa farsi universale nel racconto dei tipi dei personaggi come la sora Lella, Mario Brega e Alberto Sordi. Adesso dovete essere sincera, eh? Chi è il miglior regista col quale avete lavorato? Dite la verità. Non scherza, Carlo Verdoni. Che ci sono meglio di Carlo Verdoni? Io mi sono trovata più meglio di tutti così. Perché tu... Brava. La signora Lella, ecco, giusto lei l'ha conosciuta qui nel bar, che si metteva seduta su due sedie, che aveva poco spazio per sedere, e quindi metteva due sedie vicine e si metteva a cavallo sopra. Ma voi siete una grande attrice. Ma che io, ma me l'hai... Perché siete vera, siete spontanea, è quella la forza vostra. Ma io di fronte a te non so nessuno. Ma che beato. Sì, beato te. Gli ultimi caratteristiche in quel momento il cinema poteva dare. Cuore secchi, io barfò, questa Dio, chi te capisce, parla romano, perché io parlo solo romano. E aver conosciuto questi personaggi mi è servito tanto. Se mettiamo davanti alla macchina da presa, come se mettiamo davanti, mi tira quattro cassotti, glieli paro tutti e quattro. L'ho finto col destro, un passo, gli porto un gancio, si sammocca, mi casca per terra come Gesù Cristo. Mi hanno dato quella filosofia, quella saggezza, quella sbaragoneria tipica romana, me l'ha fatta capire meglio. Nel 1982 Sordi e Verdone recitano insieme nel film In viaggio con papà. Il loro incontro è subito un successo. Ce lo ricordano il padre di Carlo, Mario, e il fratello di Carlo Verdone, Luca. Alberto Sordi intanto era un vicino di casa, allora lui, sempre bambinetto, si affacciava lì tra le sbarre lì della terrazza e guardava, e poi faceva: Alberto Sordi. E siccome era estate, mia sorella usciva dalla cosa, oh, da zitto, da dormire. E lui allora doveva spagliarsela. Poi dopo, piano piano, entrando nel mondo del cinema, oramai si è imbattuto di più con Sordi, alla fine sono diventati amici, hanno fatto insieme In viaggio con papà. Sa che sono 6 mesi che lui si è messo in nota. Tu sì. Mi hai messo in nota, io non ci volevo venire per niente. Non contraddire sempre papà, non sta sempre a contare papà. Sono 6 mesi per vedere Pippo Baudo, per vedere Fiat a Domenica Inn, vedi il pubblico come... Bravo, hai visto? Tutti e due guardano ai difetti degli italiani, tutti e due, cioè la base di partenza è quella, cioè Sordi rappresenta i difetti degli italiani con una capacità quasi, con aggressività. Carlo invece in certi momenti è aggressivo come Sordi, ma in altri momenti ha delle sfumature più malinconiche che Sordi ha in qualche film come Un borghese piccolo piccolo. Ma che nella maggioranza dei film non ha. Fagli la torta. Lui fa tutti gli uccelli del mondo. Non me va, no. Dai la torta. Non me va. Fagli la torta, sei buono. Dai, fagli la torta. Dai. Senti. Dai, fagli la torta. Sei zitto. Un malatta. Fagli la torta. Fa quello che dice papà. Via. Senti. Non è la torta. Sai quando è che mi fa effetto il fatto di aver lavorato con Sordi? Quando vedo in televisione un attore straordinario, soprattutto nei suoi film in bianco e nero, in cui rimango incantato nel vedere questo pazzo con questi tempi recitativi veramente d'avanguardia per quei tempi. Allora mi fermo e dico: io ho lavorato con questo. Mazze zozzeria. Chiamare cani oggi. Maccalone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccalone. Io me ne mangio. Sono da mangiato. Certo che Sordi di fronte all'arco è tutta un'altra camminata, eh? Io amo uscire presto la mattina, mi fermo a parlare col giornalaio, parlo col farmacista, parlo col macellaio, parlo col droghiere, parlo col tabaccaio, parlo col benzinaio, cioè... Alla fine mi piace, Sordi non era così, Sordi era in pubblico, ma poi nel privato era una persona molto austera. Ma ora per Carlo Verdone c'è una prova più importante, è venuto il momento di uscire dai personaggi televisivi e affrontare la prima vera prova d'autore. Per la sua carriera è un passaggio decisivo. L'anno è il 1982 e il film è Borotalco. Sergio, benvenuti. Come? Benvenuti, come benvenuti a Roma, benvenuti a Orvieto, benvenuti a Viareggio. Non è di più, che ho capito. Il film è stato fondamentale. Se io oggi sono qua e parlo con te, lo dobbiamo a Borotalco, guarda, credimi, più che un sacco bello. Ma insomma, che c'hai? Battente bandiera liberiana. Se non avessi saputo reggere un film interpretando un personaggio unico, non caratterizzato come i caratteri di un sacco bello e Bianco Rosso e Perdone, che avevano le parrucche, avevano delle voci strane. In Borotalco invece, sì, là c'è un momento che rifaccio un pochino il verso a Manuel Fantoni, però è un film in cui sono me stesso. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. All'inizio c'aveva il film a sketch, poi in un certo senso ha fatto un po' di commedia sofisticata all'americana, però italiano, insomma, non è che imitasse gli americani. Avete sentito Mario Verdone, padre di Carlo. Compagni di scuola è un film assolutamente stravagante che dimostra la capacità di Carlo Verdone di non mettersi mai, comunque sempre in primo piano, ma di riuscire a lavorare bene anche come grande direttore d'attori, con altri attori come Margherita Bui in Maledetto il giorno che t'ho incontrato. Sentiamolo. Action! Maledetto il giorno che t'ho incontrato è un'opera di autoanalisi che io ho fatto di fronte al pubblico. Beh, io sto a guardare, mi identifico in te. Dai! Io mi sono talmente autoanalizzato e rappresentato perfettamente che alla fine forse quelle fragilità, quelle debolezze, quelle fobie anche che avevo si sono praticamente come hanno perso consistenza. Sono molto svanite. Con la storia di Carlo Verdone a Mix 24 continuiamo dopo la viabilità. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Ogni domenica alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di un grande regista, Carlo Verdone, che oltre a essere attore è scrittore delle sue storie, regista e musicista. Così lo descrive chi ha lavorato con lui. Cioè il lavoro si fa a casa sua, sempre alla stessa ora, perché tutto inizia solo dopo pranzo, sempre con questa piccola cerimonia del caffè appena arrivati, sempre lui con una voce un po' stanca che dice: ma che volete, un caffè? E lui comincia a recitare, viene come posseduto da uno dei suoi personaggi, no? Io devo amare il personaggio di fondo, mi ci devo sentire bene dentro, devo essere credibile e mi devo sempre trovare in genere un personaggio femminile, possibilmente femminile, perché mi riesce meglio, che sia contrapposto a me. E infatti Carlo Verdone, come avete sentito, sarà un perfetto scopritore di talenti femminili e di attrici. Uscito dal guscio dei suoi personaggi, Verdone è un protagonista pronto a misurarsi con le donne in commedie sentimentali, sofisticate, mai volgari, sempre sospese tra l'osservazione del quotidiano e il surreale. Io conoscevo talmente bene tutte le sue, perché io ho studiato praticamente, avevo fatto un master di tutti i suoi lavori, per cui quando io ci ho iniziato a recitare mi sembrava di conoscerlo tutta la vita. Io mi trovo molto bene nei duelli con le donne, o che sono mogli, o che sono amanti, o che sono sorelle, o che sono madri. Quasi sempre le donne dei film di Carlo sono dei tornadi che poi sconvolgono la sua vita. Io non sapevo di poter fare un film comico. Action! Buongiorno! Mi ha detto: guarda, io devo fare questo film, cerco una coatta. Ma tu secondo me potresti essere coatta, c'hai tutta la faccetta così da, ma secondo me tu... Io, Jessica, prendo te, Ivano, come mio sposo e prometto di esserti felice sempre nel... Fedele, uccia, ce l'ho! Magari in viaggi di nozze gli davo dei suggerimenti. Lui mi ha insegnato intanto i tempi e dopo il film Viaggi di nozze mi chiamò Carlo e mi disse: guarda, dobbiamo fare un film io e te. Ce soir, Iris Blonde and the Freezer. Io gli ho detto: quello che a me piacerebbe fare è una cantante. Miss Blonde è stata scritta praticamente su un paio di brani di Everything But the Girl. Quella canzone mi ha sollecitato in qualche modo a scrivere un film che volevo fare, e Claudio Gerini era l'unica in Italia che poteva cantare e l'unica che poteva ballare e recitare insieme. Ma accanto ai caratteri, ai personaggi femminili, un altro grande protagonista del cinema di Verdone è la musica. Per lui è una passione nata prestissimo, suonando la batteria e presente in ogni momento della sua vita, come raccontano suo figlio Paolo e il padre Mario. La mattina vado a fare il primo ciak, perché vedo davanti a me una montagna da scalare, non so se ce la farò sempre. Prendo e metto un disco di Pete Townsend. Mi carico con quello. A un certo momento lui dice: senti, ma qua ci riusciresti a metterci una schitarra da viola lenta, un bel accordo tipo Pete Townsend, cioè. E io appunto per questo motivo, il fatto che ormai ho capito com'è che lui pensa la musica, ho detto: sì, ho capito già perfettamente cosa vuoi. Tanto è vero che poi un giorno sono andato a casa sua e gli ho detto: senti, questi due accordi, gli ho fatto questi due accordi che avevo pensato, e mi ha detto: quelli devi fare. Mio padre è un grande fan degli Who. Quando sono venuti a Roma per la prima volta i Beatles, e io gli ho detto: Carlo, vestiti, andiamo a teatro. Dove? A vedere i Beatles. E chi sono? I Beatles? Sono famosi, vedrai. Sarà una serata storica, gli ho detto. Signore! Signori! Vi presentiamo i Beatles! George! John! Ringo! Ma come per i suoi personaggi più celebri, anche l'uomo Verdone non è immune da tic e nevrosi. Quasi leggendaria nell'ambiente la sua ipocondria, la sua debolezza, che però Verdone ha saputo prima sfruttare sullo schermo e poi ribaltare a suo vantaggio, come testimoniano gli amici. L'ho chiamato perché per mia figlia, che perché gli devo chiedere se gli devo dare Nofron o... La sera, guarda che tu scherzi, ma la sera qua arrivano dalle 3 alle 4 telefonate ogni sera di qualcuno che mi dice: ti disturbo. Io rispondo come il medico di Viaggi di nozze: non mi disturbo affatto. Io non ho fatto il medico perché non avrei sopportato le lezioni di anatomia, non avrei resistito. Una carriera senza sosta, più di 20 film da regista, più di 30 come attore, un successo ininterrotto che si ripete a ogni stagione, aggiungendo alla sua galleria nuovi ritratti oppure rivisitando il passato. È il caso di grande, grosso e Verdone, campione di incassi dell'inverno 2008, in cui recitano gli amici Stefano Natale e Massimo Marino. No! Oddio! E forse non tossiva, non chiamava, non parlava, era morta! Diceva: tu fai mio fratello Guerrino, che vive in Australia, a Melbourne, e torna perché è morta nostra madre. Il sogno mio dopo tanti anni è stato realizzato. Avete scelta la brava? Questa? La più economica fra i economici. Ma la potete fare da soli con 4 fogli di compensato. Carlo Verdone, sin da ragazzino, era l'icona proprio di Roma. Una sera attraverso il ponte di Regina Celi, va bene, per arrivare a Via Giulia, l'una di notte. Mi fermo, sento un rumore da una motocicletta sfondata di marmitte con due terribili sopra. uno fa, amberi c'è sta Carlo Verdone, mamma mia Carlo, a Roma c'è sta soltanto del Papa, lo sai, sì, mamma mia, tira fuori il telefono, non mi c'è via, è troppo buio, dietro, ti di papà, a Carlo, tu guarda, veramente, guarda, quando esce il prossimo, guarda, guarda, te giuri, i momenti belli che mi ti un attimo, sto a parlare, cominciavano ad arrivare qua pure qualche macchina, una luna di notte che suonava. Questi erano terribili. A un certo punto dico, 7 marzo esco i personaggi. I personaggi, mannaggia la miseria, bella ca, bella. Partono, ma facendo la curva mi lancia una battuta. Ah Carlo, grazie, mi hai dato il sorriso a un'adolescenza de merda. Bello. Grazie per avermi dato il sorriso a un'adolescenza de merda. Questo vale 10 Davide di Donatello, sta battuta. Ma regà, sapete qual è il problema? Che nessuno c'ha più niente da dire. È stato detto tutto. Pia moda? Sì. Una volta eravamo noi che si attaccavamo ai stilisti va bene dritta. Poi sono stati i stilisti che si sono attaccati a noi. E che te non venta più per i sortei, va? Sul capello poi stavo detto tutto, ma proprio tutto. Se siamo rapati, si siamo tagliati, si siamo fatti ricrescere, si siamo dinte, si siamo bruciati, si siamo lavati. Sono orecchini uguali, oh. Solo sulla cervicale non ci siamo messi. Pure i tatuaggi ti raccomando, si copiano. E infatti, oppure la musica ranca. Io mi sto a buttare sul medievale, t'ho detto tutto. La verità è che ci hanno clonato a tutti, ci hanno. Come i cellulari? Sì. Comunque voglio fare un discorso serio, concentratevi, vi prego. Ma secondo voi che dovessimo da fare noi per risultare in un certo modo? Per essere veramente strani. Oh, a me per questa trovata mi è scoppiata la testa. Che? Che? Quale? Che ti sei inventata? Nascella sì, nascella no. E che è una trovata? 2 anni fa ha fatta già Courtney Love. Ma che, davvero? Magari con 2 anni di ritardo, non vedi questa? No, che sfiga. Ci ha fatto pure la copertina del Compact. Infatti. Che siluro mi ha tirato. Sì, sì. Te saluto, ciao bella. Oh, una stella cadente! La stella cadente, là! Il desiderio, il desiderio! Oh, ci siete riusciti? A me non mi è venuto. Io non l'ho vista proprio. Ma che te vuoi desiderare? Che palle, oh.